In Parlamento noi abbiamo fatto un comunicato come FIOM Nazionale che chiede, partendo dagli eventi di Cornigliano, ma che è solo l'ultimo dei grandi incidenti sul lavoro, e chiediamo ai parlamentari di non approvare la modifica delle leggi 626 e il testo, di fatto il testo unico che stanno preparando sulla sicurezza, perché è un testo che nella sua radice produce una profonda cambiamento in negativo dal nostro punto di vista su ciò che avverrà nel mondo del lavoro e della sicurezza dei lavoratori. Perché si abbandona, diciamo, il principio di precauzione presente in tutte le leggi, non solo nella 626 del 94, ma già nel 56 e nelle altre leggi del passato, il principio di precauzione che imponeva al datore di lavoro di fare tutto ciò che era nel tecnologicamente possibile per adeguare gli impianti alla sicurezza dei lavoratori. Oggi questo principio viene rovesciato e si introduce una cosa nuova per il nostro ordinamento e credo nuova abbastanza sul panorama anche internazionale, di un principio della compatibilità dei costi, quindi gli eventi e l'intervento per migliorare le condizioni di lavoro e per evitare gli infortuni viene sottoposto, diciamo, alla questione della compatibilità dei costi dell'impresa. Non che non ci fosse, cioè le imprese da sempre guardano anche la compatibilità, ma il punto di inserirlo all'interno della normativa giustificherà sempre e comunque l'impresa quando non riuscirà a fare, diciamo così, o a intervenire con le dovute esperienti e l'innovazione tecnologica che permette, diciamo, di introdurre innovazione anche sul piano della sicurezza. Quindi questo è un problema, il primo grande problema che c'è in questa nuova normativa, e la prima grande questione che noi chiediamo venga completamente cassata, cioè si mantenga il principio della precauzione, non si introduca questo elemento della compatibilità dei costi, perché altrimenti si ritorna dal punto di vista della sicurezza all'anteguerra, cioè quando era un elemento assolutamente non valutato, non calcolato. L'imprenditore è chiaro che interviene solo se viene obbligato, perché generalmente guarda i suoi interessi e assolutamente non guarda gli effetti diciamo che i suoi interessi provocano sulle persone. Poi c'è un problema che riguarda i controlli, nel senso che questo sembrerebbe nell'impianto legislativo che stanno predisponendo che passerebbero i controlli che sono dati alle ASL, che sono dati agli SPISAL, ai vari soggetti, insomma ai medici del lavoro, delle ASL, l'intenzione è passare dalla vigilanza, che è il compito che oggi hanno, oltre ad altri compiti, compresi quelli della formazione e altre più secondari dal nostro punto di vista, si passa dalla vigilanza, viene eliminato questo concetto della vigilanza e si passa a quello della consulenza, cioè questi medici sarebbero i consulenti delle imprese, suggerirebbero gli interventi da fare, ma senza più la possibilità, o con una possibilità molto più limitata rispetto ad oggi, di imporre le modifiche per migliorare la condizione di lavoro. E poi c'è la parte della depenalizzazione, perché che completa il quadro, nel senso che i reati dovuti alle violazioni delle norme sulla sicurezza, le future norme della sicurezza, verrebbero depenalizzati. A noi sembra che questo insieme, cioè come FIOM, sembra che questo insieme normativo che si sta predisponendo produrrà un effetto devastante sull'insieme della sicurezza dei lavoratori, e a poco valgono i rapporti annuali come quelli dell'INAE che in questi giorni hanno presentato una riduzione degli infortuni e delle mortalità, anche perché l'unica riduzione che c'è stata è stata legata agli infortuni ad intinere, quelli casa lavoro, perché sembrerebbe avesse funzionato un po' la patente a punti. Tutti gli altri indicatori dicono che all'interno delle fabbriche, all'interno dei luoghi di lavoro, dall'agricoltura all'edilizia, dalla meccanica al commercio, sia gli infortuni sia gravi, mortali, sia gli altri infortuni, continuiamo a rimanere intorno ad oltre 1000 infortuni al giorno, infortuni mortali, e all'incirca 1 milione di infortuni complessivi invalidanti per i lavoratori.